frío se ne va. Non è un suono di chitarra, son gabbiani in mezzo al mare. La salsedine del mare nel mio corpo entra già. Come questo sentimento che mai più mi nascerà. Questa barca senza patria, dove mai ci porterà? Ai confini dell'irrealtà. Cara mia, non ti fidare. Se un amor nasce in estate, può morire anche in due ore. Io non sapevo che in due ore si può morire per amore. Io non sapevo che da un'onda potesse nascere una leggenda. La leggenda del nostro amore.